Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. È rinviato ieri per far luogo alla lieta novella, rimbalza sulla puntata di oggi l'appuntamento con il calcio internazionale. Non subito, perché viene preceduto da qualche notizia, qualche commento, qualche eco ancora dell'affare Kakà, ma soprattutto direi dalla vigilia di Udinese-Sampdoria in programma alle 18 e Inter-Roma 20:45, due sfide secche per i quarti di finale di Coppa Italia. Ora, quello di San Siro mi sembra in particolare un appuntamento di grande interesse, anche di fascino, visto che negli ultimi anni questo quarto di finale in realtà è sempre stata la finale di Coppa Italia, con esiti alterni. È stata inoltre la finale di Supercoppa, per quel che può valere, nella scorsa estate, con la vittoria ai rigori dell'Inter dopo l'errore decisivo di Totti dal dischetto. Ed è un test importante, più per l'Inter che per la Roma, visto che Mourinho stasera ha messo in castigo, senza farne mistero, quelli che lui stesso ha battezzato come colpevoli del rovescio di Bergamo. Sentiamo subito allora la vigilia proprio di Mourinho. Solo due volte ho sentito veramente un sentimento negativo molto speciale. Una è stata questa partita. Il momento meno positivo che vivo io in questo momento è un momento meno positivo dove sono primo in classifica. Non mi interessa l'avversario, per me tutte le partite sono partite uguali. Mancano rispetto a Bergamo, mancano Cordoba, Maxwell, Crespo e Obin, quindi sono quattro per l'appunto i giocatori sostituiti. In porta giocherà Toldo, la linea difensiva dovrebbe avere Maicon, Samuel, Chivu e Zanetti, Cambiasso a fare da frangiflutti in mezzo al campo, Quaresma è ripescato all'ala con Mancini, Ibrahimovic centrale e Stankovic e Muntari gli altri due centrocampisti. La Roma, che non ha nemmeno stasera il portiere Doni, gioca con i quattro in linea Sisinio, Mexes, Juan e Rise, per rotta De Rossi e Brighi a metà campo con Pizzarro e poi Battista e Vucinic. Insomma, la Roma gioca al suo meglio, l'Inter pure con queste sostituzioni. La vigilia allora anche di Spalletti. Io voglio pensare di essere alla pari con l'Inter è già un grosso risultato di partenza e di conseguenza bisogna andare a giocarci la partita. Secondo me non ha nessun problema. È successo che poi l'Atalanta è una squadra che gioca bene a calcio e di conseguenza è venuto fuori questo risultato, che non sposta assolutamente niente su quello che è il valore e su quello che è la forza dell'Inter anche in questo momento qui. Ecco. Torneremo a parlare di Coppa Italia magari più tardi, anche dell'altra sfida, ripeto, quella in programma Udine con la Sampdoria. C'è qualche commento, qualche eco sul caso Kakà, sia commenti arrivati da voi attraverso le vostre mail, sia scovati e stanati sui giornali. In particolare la conclusione dell'articolo di stamane di Cannavò, che comincia in prima e che dice: è finita bene per tutti, adesso la scelta di Kakà deve coincidere in pieno con quella del Milan. Il ragazzo brasiliano entra nella linea dinastica Rivera, Baresi, Maldini, gente che si è identificata nel Milan senza subire la minima interferenza nel proprio territorio. E staremo a vedere se questo sarà davvero il futuro anche lontano di Kakà, non solo quello immediato. Il Sole 24 Ore, non come conseguenza diretta della mancata cessione di Kakà, ma certamente, anche se certamente si è riverberata sul bilancio, pubblica i conti del Milan a giugno 2008 con una perdita di 30 milioni, con un rosso di 30 milioni di euro e un aumento del costo del personale, in particolare del 20%. I debiti totali sono passati da 283 milioni di euro del bilancio consolidato 2006 ai 316 del bilancio consolidato 2007. Domani li sottoporrò all'attenzione di Marco Bellinazzo per ricavarne qualche elemento in più. Sul sito www.lavoce.info, curato da un articolo di Tito Boeri e Fausto Panunzi, due illustri economisti, si sono domandati perché lo sceicco Mansour, quello del Manchester City, non abbia comprato una squadra italiana. Ed è interessante l'inizio di questo lungo articolo. Ha offerto una cifra astronomica per il milanista Kakà, ma allo sceicco sarebbe costato di meno acquistare un'intera squadra italiana. Non lo ha fatto perché l'industria del calcio in Italia riproduce gli stessi fattori che allontanano gli investitori esteri dalle aziende italiane. Ci sono le tifoserie organizzate che esigono una sorta di pizzo, le normative sono complesse, inapplicate o comunque arbitrarie, esponendo gli stranieri a rischi difficilmente ponderabili, abbondano leggi ad hoc e sanatorie per chi viola le regole, e poi c'è l'endemico conflitto di interessi del nostro paese. Questo è lo scenario per cui un investitore straniero, lo dicono chiaramente Boeri e Pannunzi, così come ci pensa due volte a investire su aziende italiane, altrettanto fanno nei confronti del calcio italiano. Un altro più lungo ritaglio sarà un'analisi severa, direi anche perfida, come spesso gli accade, di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, sul perché Berlusconi ha scelto Biscardi per l'annuncio al popolo rossonero. Ci sono già due ascoltatori collegati, allora li sentiamo subito, perché poi apriremo questa ampia pagina del calcio internazionale. Giuseppe ha chiamato da Padova, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dica. Io chiamavo, non vorrei tornare sul discorso del calcio, ma solo un piccolo inciso. A me sembra così, dal mio punto di vista forse un po' fantasioso, che sia stata un po' tutta una cosa mediatica, perché ultimamente vedo che il Milan, a cominciare da Beckham, diciamo che se ne parla più fuori campo che non in campo, e anche questa operazione mi è sembrata tale, sinceramente, per cui, visto che in campo non si può parlare più di tanto, vista la situazione del Milan come squadra, hanno puntato su, almeno questo è il mio parere tutto personale, su un discorso di questo tipo, che probabilmente sarà vero o non sarà vero, però mi ha dato questa impressione, ecco. Non so cosa ne posso pensare lei. Ma io penso che ogni interpretazione su questa vicenda ci sta, poi ce ne saranno di più credibili e di altre meno, ma quella che lei affaccia indubbiamente qualche base d'appoggio ce l'ha. Ce n'è un'altra carina, scritta da Mauro Caratti, che è un ascoltatore di Acqui Terme, e che dice: strano che nessuno abbia parlato della variabile sponsor. Ora io personalmente, quando leggo strano che, oppure quando sento, adesso dico una cosa controcorrente provocatoria, in genere insomma, penso che vada a finire nella banalità più assoluta, e invece in questo caso Mauro c'entra un problema di cui effettivamente, un aspetto di cui si è parlato molto poco. Ma siamo sicuri, scrive, che gli sponsor di Kakà, in particolare quello tecnico, avrebbero avallato il trasferimento dei giocatori in una piazza dove, se va bene, ma molto bene, solo tra 2-3 anni si sarebbe riaffacciato sul palcoscenico europeo? E poi gli anni per Kakà passano, e viste le caratteristiche del giocatore, chi stratta 3 anni che tipo di giocatore sarà? Infine, gli sponsor del Milan avrebbero avallato un ridimensionamento in corsa del parco giocatori della squadra. Anche questa è un'altra riflessione che certamente ha diritto di cittadinanza. Andrea Boneita invece da Desenzano scrive, e questo è in sintonia con quello che ha scritto Cannavò, ma la sua lettera, la sua mail è arrivata ieri: per quanto riguarda un possibile trasferimento di Kakà a Madrid quest'estate, suggerirei al Milan la semplice consegna della fascia di capitano dopo il periodo Maldini. Con questo semplicissimo gesto Kakà rimarrà senza chiedere soldi in più, almeno per qualche tempo. Cosa ne pensa? Ma io penso che, conoscendo non tanto Kakà quanto il subabbo, credo che se con la destra gli dai la fascia da capitano, con la sinistra è meglio, come dire, metterci insieme qualcosa anche di concreto, per essere proprio sicuri, mi par di capire. Giovanni da Milano, buongiorno. Buongiorno, saluto ai telespettatori. Sì. Senta, io su Kakà penso che questo trasferimento, perché un giocatore come Kakà non può essere ceduto, diciamo, a gennaio senza nessun preparativo, perciò io penso che il trasferimento eventualmente era stato preparato già quest'estate. Infatti il Milan si era preparato con i vari colpi di Ronaldinho e Beckham per poter sostituire Kakà, perché io infatti ho visto che quando giocano tutti e due assieme, o uno e l'altro non rendono, cioè uno oscura l'altro in pratica. Perciò sono d'accordo col telespettatore che appunto parlava che il mancato trasferimento non è tanto l'attaccamento alla maglia, perché non ci credo a questi giocatori moderni attaccati alle maglie, cioè, ma quanto sia dovuto un problema agli sponsor che hanno un po' bloccato il trasferimento, e poi Berlusconi con tutti i suoi sondaggi avrà capito che forse avrebbe perso anche consensi. Anche grazie, qui, anche qui un po' di questo, un po' di tutto questo ci può stare, entro certi limiti. Entro certi limiti, naturalmente. Dunque, questo era Giovanni da Milano. Mi pare che tocchi a Giuliano dalla provincia di Milano ancora. Buongiorno. Buongiorno Gigi Garanzini. Dica. Auguri per intanto e buon anno, anche se in ritardo, però solo oggi mi è stato dato di intervenire. Sì. Allora, il fatto di Kakà, io dico una cosa. Al Milan c'è un certo Shevchenko, la cui esperienza al Chelsea è stata traumatica. Io dico, allora Kakà non è andato al Manchester per una sola cosa. Il Manchester sarebbe stata la sua morte calcistica. Poi, Ronaldinho, quest'estate, a me risulta che abbia detto di no a Manchester. E ci va lui al Manchester? Un'altra cosa, Gigi. Ci dice che dietro ci sia il Real Madrid. Non è vero. Il Real Madrid è senza presidente. Anzi, io, al posto del reggente, al posto di Calderon, eviterei che vengano messi in vendita i migliori giocatori del Real. Grazie, Gigi. grazie a lei e buona giornata. È curiosa, anche un po' isterica, sta reazione di Zenga alla giornata di squalifica che gli è stata comminata dal giudice sportivo. Sto pensando seriamente di non andare più in panchina. Chiederò alla società, ha detto Zenga, di potermi sistemare in tribuna durante le partite in modo da dirigere la squadra da lì. A bordo campo starà il mio vice Pino Herrera. Premetto che dopo questo intervento non voglio parlare mai più di Collina negli arbitri. Domenica sono stato allontanato dal campo solo perché ho segnalato un fallo di mano e ci tengo a precisare che non ho mai offeso nessuno. Che devo dire, a questo punto andrò in tribuna. In passato l'ho già fatto in Romania e in Turchia, in Inghilterra si usa da tempo, adotterò se possibile quel metodo, così avrò anche una visuale migliore. Tocca a Riccardo da Bergamo e poi facciamo il primo intervallo della giornata. Dica. Buongiorno, allora sono un tifoso milanista, volevo fare un piccolo parallelo fra la cessione potenziale di Kakà e quella effettiva di Buffon. Parere. Effettiva in che senso, mi scusi? No, nel senso che il Milan l'ha fatto malissimo, secondo me, a non cederlo. Voglio dire, perché avrebbe sistemato tutti i suoi problemi senza perdere in qualità, avendo appunto Pato e poi appunto Ronaldinho. Dal punto di vista pratico, mi sembra che invece l'acquisto oneroso degli ultimi anni migliore l'ha fatto la Juventus, perché si è preso un portiere che è costato sì 100 miliardi di lire, ma che durando almeno 10 anni ha un costo annuale di al massimo 10 miliardi. Cedendo invece Kakà, il Manchester avrebbe avuto una posizione di alto livello solo per 3-4 anni, quindi con un costo annuale 4-5 volte superiore. Sembra una cosa banale questa, ma credo che quando dobbiamo ragionare di bilanci e di investimenti produttivi, è stato un errore da una parte del Milan non cederlo, d'altra parte storicamente ha fatto benissimo la Juventus sia a cedere il suo pezzo d'oro di Zidane sia a prendere invece Buffon. Sì, Riccardo, in linea di massima sì, poi insomma qua e là qualche zoppia c'era, perché quando lei mi dice che poteva andare Kakà perché tanto c'era un Aldinho, beh, insomma, stiamo parlando delle sgasate di una Ferrari o di una Maserati rispetto all'accelerazione di un diesel, insomma, col motore fuori giri da tempo, no? Quindi mi sembra un tantinello diverso. Continuo a credere che tra tutte queste ragioni che abbiamo detto e tante altre ancora che hanno altrettante legittimità, ci siano anche quei 3 punti di distacco in meno che grazie alla sconfitta dell'Inter a Bergamo sono maturati tra l'inizio della trattativa e la sua conclusione, che era per l'appunto fissata per lunedì. Va bene, mettiamo la sordina per qualche minuto almeno alla Fercacà e arriviamo come promesso all'appuntamento col calcio internazionale. Il ministro degli esteri è già collegato. Buongiorno Fabio Tavelli. Presente, buongiorno a tutti. Presente alle bandiere. Dunque, cosa? Inghilterra, Spagna, Francia, da dove vuoi partire? Riusciamo a non parlare di Kakà? Se ce la facciamo è meglio, anche perché insomma, succederà 2-3 giorni ininterrottamente, sì. E succederà ancora più tardi con gli interventi degli ascoltatori. Sì, anche perché non sono mancate poi le reazioni anche inglesi all'affare, cioè all'affare non fatto, per cui... è un'onda che rimane comunque non più di piena come certamente sarà stato ieri, l'altro ieri, però è un movimento importante. Sì, e che continua anche in Spagna, perché in Spagna i giornali spagnoli e i siti spagnoli non sono affatto convinti che sia finita qui, o meglio, anzi, pensano che si stia orientando in un'altra maniera che insomma avrebbe tutt'altro appeal presso Kakà. Ma insomma, se non c'è nulla di particolarmente fresco e... No, di freschissimo no, c'era una dichiarazione attribuita a Beckham su AS di un Beckham sicuro che Kakà sarebbe arrivato al Real Madrid. Io non sono sicurissimo, anche se AS è certamente più serio di altri tabloid o così, che sia proprio tutto vero. Mm-hmm. Mi sembra molto strano che Beckham, che probabilmente in questi giorni, in queste ore, è un po' in crisi di apparizione, visto che è stato oscurato totalmente, ma come chiunque, cioè, nel dopo partita di Sky e nei passaggi a Sky Sport 24, cioè nei tuoi paraggi domenica sera, a un certo punto c'era collegato lì Beckham, che fino a due settimane fa avrebbe stracciato, no? Qualsiasi altra apparizione, e invece era lì e stava rompendo le balle, insomma, ha detto la sua presenza perché il fronte vero era sull'altro versante, insomma. Sì, non avendo incantato nemmeno alla seconda uscita, era così. Boh, no, per quanto riguarda, insomma, nella Spagna adesso si cominciano a misurare i punti del Barcellona e a cominciare a dare un'occhiata ai record. Insomma, il Barcellona, che gioca in Coppa del Re contro l'Espagnol, ha vinto stasera, 16 partite. Sì, ha vinto 16 partite su 19, considerando che la prima l'ha persa. Insomma, è un percorso netto, quasi netto, che ha pochi eguali nella storia. Ora, 50 su 57 disponibili, sì, sì. Che è un qualcosa di mostruoso, sì. È un qualcosa che un nostro commentatore, Riccardo Trevisani, la cui poi battuta in telecronaca è stata anche ripresa da El País, ha detto che oggi il Barcellona è illegale, cioè una squadra che è al di fuori o al di sopra forse della legge, insomma. Carine. Sì, una squadra che a livello di Liga è ingiocabile, nel senso che non c'è in questo momento, anche perché le altre vanno un po' a intermittenza, sono le migliori, sono a 12 punti. Il Real Madrid ha vinto una partita di regime domenica contro il povero malcapitato, sì, Osasuna, al quale hanno tolto un rigore. Anche questa di regime potrebbe finire sulla stampa spagnola, secondo me, anche questa partita di regime. Però è vero che così è andata con l'Osasuna. Sì, è andata così, anche perché l'arbitro, ma la curiosità di questo arbitro Burrull, che non è nuovissimo, nel senso che è comunque un arbitro molto esperto, lui ha segnato il calcio di rigore per l'intervento di Pepe sull'attaccante dell'Osasuna. Il guardaline, che era in una posizione perfetta per vedere, lo ha chiamato, lo ha corretto, quindi l'arbitro si è visto costretto, no, ma insomma, di fronte alla sicurezza del guardaline, ha ammonito l'attaccante dell'Osasuna per simulazione, come da regolamento, come è giusto che sia. Certo, il che significa anche, Fabio, che tutto il mondo sta diventando paese, perché questo è proprio un problema grave che attualmente c'è in Italia, sì, che sia Gussoni che Collina hanno sottolineato recentemente, di questi assistenti che, per carità, per far bene, per collaborare, però finiscono per non farsi gli affari loro, sì, e per indurre in errore l'arbitro. Non c'è dubbio, anche perché l'arbitro era sicuramente in una posizione meno favorevole del guardaline. Io non lo so, perché poi nella testa di un uomo non si riesce ad entrare. No. Credo che l'arbitro si sia legittimamente posto il dubbio e, di fronte alla sicurezza del suo collaboratore, abbia voluto dargli ascolto. Peccato che, al di là poi che Burrull ne ha fatte altre durante la partita, però stavolta ci aveva visto giusto, e in questo caso, visto che il giocatore dell'Osasuna era già stato ammonito, ha dovuto espellerlo. Quindi da un rigore a favore dell'Osasuna siamo passati a un 11 contro 10. L'Osasuna, insomma, alla fine poi la partita l'ha persa, anche perché ha un portiere che insomma sarebbe impresentabile anche nelle nostre serie inferiori, sì. Però insomma è certamente così. Ma la cosa più divertente, Gigi, di quella serata, almeno a parer mio, è stata la faccia di Camacho. Cioè, Camacho è stato una bandiera del Real Madrid e per mille partite ha visto la sua squadra favorita dagli arbitri, e lui si stracciava le vesti di fronte a tutto questo, proprio perché, insomma, quando tu stai da una parte vedi, no, o forse non ti accorgi di quanto ti favoriscono, quando poi stai dall'altra parte e vai a allenare i piccoli, capisci. Cambia la musica. Cambia, sì. Due o tre messaggi, due o tre interventi. Uno domanda come fanno a essere 57 punti. Beh, non è difficile, si moltiplicano 19 partite per 3, per i 3 punti potenziali a disposizione, quindi il massimo possibile sarebbe 57, il Barça ne ha fatti 50. Due domande per te. Una è: quanti meriti ha Guardiola? E questa domanda è firmata Ernesto Lonato. E la seconda è: il mio povero Manchester United è disastrato agli infortuni. Scrive Renato da Vittorio Veneto. Il merito di Guardiola è notevole nel momento in cui Guardiola si è trovato un telaio certamente logoro dalla gestione Rijkaard, ma comunque ancora integro dal punto di vista della capacità dei giocatori. Una volta riavuto Eto'o in piena forma, considerando Messi fortunatamente meno alle prese di altre stagioni con gli infortuni, infilando una serie di risultati utili consecutivi che gli hanno dato coraggio, Guardiola ha certamente molti meriti in questo exploit. Molti meriti li ha anche il Barcellona di averlo difeso senza problemi e senza imbarazzi dopo le prime 3 giornate nelle quali il Barcellona aveva fatto fatica. E tutto questo, ma come abbiamo già detto, deriva dal fatto che Guardiola godeva di una credibilità altissima, essendo stato una bandiera del certo. Barcellona, quindi questo era in dubbio. Per quanto riguarda il Manchester United, è vero, perché la partita di Carling Cup di ieri è costata almeno 3 infortuni, quello di Rafael, quello di Anderson, anche quello di Nani, e sono in dubbio anche Gary Neville e Johnny Evans, per cui considerando che anche Rooney è fuori, il più grave dovrebbe essere Rafael fuori per un mese, è un problema all'inguine, vari infortuni da parte degli altri. Certamente sono infortuni importanti perché poi costringeranno Ferguson a fare meno turnover nelle prossime settimane, quelle che insomma, si avvicinano al grande appuntamento, perché certo. Poi non dimentichiamoci che le cose vere sono quelle che succedono in Champions League tra un mesetto. Un appuntamento un po' più corto del solito oggi, lo chiuderei con la squadra ideale che è appena uscita sulle agenzie, compilata dai frequentatori del sito internet dell'UEFA, perché insomma, in genere in queste cose escono formazioni abbastanza strampalate. Vorrei che commentassi questa, che invece mi sembra che un suo senso ce l'abbia, che è Casillas, Sergio Ramos, John Terry, Puyol e Lam, Cristiano Ronaldo, Xavi, Fabregas e Ribéry, e davanti Messi e Torres con allenatore Ferguson. Discreta. Sì, sono molti spagnoli, sì. Evidentemente hanno votato in molti spagnoli, o comunque insomma erano però sono campioni d'Europa, però abbiamo detto del Barcellona, però insomma la classe, oltre che la PIL ce l'hanno. È quel Lam che mi lascia un pochino più perplesso, ma è vero che in questo momento sulla corsia di sinistra fenomeni non ce n'è. No, non ce ne sono. Se tu pensi, allora, Casillas Liga, Ramos Liga, Terry Premier, Puyol Liga, Lam Bundes, Ronaldo Premier, Xavi Liga, Fabregas Premier, Ribéry Bundes, Messi Liga, Torres Premier, Ferguson Premier. Devo spiegare perché ho fatto questa cosa? Spiega. Beh, no, lo so, non ce n'è uno. No, certo, difatti, mi stavo per l'appunto chiedendo chi si erano dimenticati in maniera abbastanza grave. Io ti dirò che tra il Sergio Ramos di quest'anno e Maicon una riflessione seria ce l'avrei fatta. Sì. E devo dire che anche tra il Torres di questa fase, se non altro per infortuni, e Ibrahimovic, un'altra riflessione l'avrei fatta anche lì. Anch'io, anche probabilmente. Anche perché Fernando Torres in 2 mesi abbondanti li ha persi per infortunio. È chiaro che il tifoso poi vota a prescindere. Non lo so, perché ad esempio se guardo la squadra del 2007, allora c'era Nesta del Milan, sì. C'era Kakà del Milan, c'era Seedorf del Milan, c'era Ibrahimovic dell'Inter. Sempre sarà Alex Ferguson il commissario, l'allenatore, quindi cioè, qualcosa c'era. È evidente che non essendoci il Milan in Champions League, un giocatore come Kakà, che non è alla stagione diciamo migliore della sua carriera, insomma, o quantomeno non alla più appariscente, è chiaro che l'apporto europeo del Milan è sempre stato un apporto di eccellenza, quindi probabilmente non vederli in Champions League, c'è meno visibilità e questo ha prodotto anche questa conseguenza. Va bene, grazie allora Fabio Tavelli, buona giornata a te e a tutti. Chiudiamo questo appuntamento settimanale. Ci sarebbero tanti messaggi da leggere, uno solo prima della linea ai mercati. Vorrei poter commentare la dichiarazione di Zenga, ma sono una signora e quindi auguro soltanto felice 2009, firmato Sonia da Valenza. Beh, fioccano anche le mail, non soltanto gli sms, quindi con qualche considerazione ovviamente più articolata. Le ultime due arrivate. Che strana gestione vive da anni l'Inter, scrive Giulio Torelli. Quando perdeva sopportava i capricci di Vieri, di Ronaldo, le fughe, non epurava comportamenti poco professionali. Oggi invece fa pulizia settimanale di gente che lo stesso Mourinho ha chiesto, come Mancini e Quaresma, per non parlare di altri come Cordoba, Maxwell, Balotelli, eccetera. Il confine per Mourinho, per essere considerato un duro e un grande comunicatore all'essere spazzato via, mancano giusto due o tre partite storte ulteriori, non crede, ma questo non lo so, però insiste ancora il signor Torelli, le reazioni di Moratti inizio settimana sembrano dire che i bonus a disposizione sono vicini al termine, non lo escluderei in effetti. Tony Cuttaia scrive invece, tutti i giornali parlano oggi di Kakà Real Madrid a giugno, ma allora perché si sente dire che Kakà è come Baldini e altre bandiere italiane? Beh, insomma, il fatto che tutti i giornali parlino di Kakà a Madrid a giugno vuol dire che sono ipotesi che vengono lanciate, perché non c'è assolutamente nulla di certo e non so quanto siano credibili queste indiscrezioni. Dopodiché è vero che un po' tanta retorica sull'italianità, no, di Kakà, che poi è brasiliano pure, non è che non si sia sprecata, no, in questi giorni e in queste ore. A proposito di retorica, io adesso darei spazio a un paio o tre di ascoltatori e poi vi leggerei questo magnifico e durissimo commento di Aldo Grasso a proposito della scelta di Biscardi da parte di Berlusconi. Aldo da Siena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, intanto la saluto e la ringrazio per avermi richiamato. Sì. E poi le volevo porre, siccome io penso che lei sia uno dei giornalisti più autorevoli italiani a livello sportivo, le volevo porre un quesito. Vorrei sapere che deve fare un povero Cristo per essere apprezzato dalla categoria giornalistica, sto parlando sportiva, Se Cahà accettava di andare al Manchester era un venale perché pensava solamente a soldi. Se Cahà non ha accettato, fa solo demagogia perché può passare bene, cioè che deve fare uno per essere apprezzato a voi? Ringraziare Aldo, ringraziare il Manchester City da diciamo due o tre mesi fa, perché poi questa storia non è che sta menata, è nata l'altro giorno, no? Ringraziare il Manchester City per la cortese lusinghiera offerta, dirsene per l'appunto lusingato e declinarla senza tutto questo cinema, senza le convocazioni del subabbo e senza tutto il resto che c'è stato intorno. Io credo questo, no? Senza andare molto lontano. Giovanni Palermo, buongiorno. Buongiorno, dica. Allora, innanzitutto preciso che sono un tifoso dell'Inter, sì, e che apprezzo come persona e come calciatore Kakà, perché è quasi ne ero dispiaciuto, è strano, ma è così, forse per i grandi giocatori si superano le barriere della tifoseria. E dico questo, vorrei stimolare una riflessione più ampia sull'atteggiamento mediatico che ha il Milan e rispetto ad altre squadre, per esempio l'Inter, per quale ragione? Allora, il Milan si permette il lusso di poter fare delle scelte mediatiche come l'acquisto di Beckham, l'acquisto di giocatori come Ronaldinho, per carità, che adesso sta dimostrando, ma anche Ronaldo, e gode di una serenità dal punto di vista mediatico. Non so che cosa sarebbe successo se l'Inter non si fosse qualificata. Sì, è un problema annoso, Giovanni, non è una novità. Insomma, d'altra parte mi sembra che il Milan, disponga di tre reti televisive direttamente e che di altre tre ce ne sia soltanto una. la terza non particolarmente in sintonia, mi pare, no? Sempre che non mi sia perso qualcosa nel frattempo. Senta comunque questo commento di Aldo Grasso sul Corriere della Sera di oggi. Se si premia la retorica di Biscardi, è il titolo. La notizia del secolo, la notizia più importante per i tifosi milanisti, ma anche per tutti coloro che credono ancora nello sport, Silvio Berlusconi l'ha data in anteprima ad Aldo Biscardi. Virgolette, do a te una notizia che farà contenti tutti i tifosi del Milan. Kakà rimane al Milan. Rimanendo al Milan non chiederà aumenti contrattuali nei prossimi anni. Chiuse le virgolette. Biscardi, virgolette, siamo l'unica trasmissione in diretta in campo nazionale e ti ringrazio per aver rispettato l'antica amicizia e aver dato a noi la notizia. Chiuse le virgolette. Continua Aldo Grasso. Intanto non è vero che la trasmissione su 7 Gold fosse l'unica in campo nazionale. Per dire, c'era Sky Sport 24, cui poco dopo il Premier si rivolgerà, e Mediaset sul DTT a Premium Calcio 24. Ma lo scoop di Biscardi ha il sapore di una farsa, dal punto di vista simbolico, ovviamente. Su Kakà è scesa tutta la retorica del caso, il cuore che vince sulla ragione, i soldi che non sono tutto, l'amore per la maglia, l'affetto dei tifosi, elemento indispensabile per tener vivo il fuoco che anima gli appassionati di calcio. Ma che la più imprevista delle notizie sia finita sulla bocca del roscio è sconcertante. È come se Obama avesse giurato non sulla Bibbia ma su un copione del Saturday Night Show. Biscardi è quello che ha inventato il calcio parlato rapinando la grammatica, il sodale di Luciano Moggi, l'abile manovratore del moviolone. Negli anni non c'è stata polemica becera che non abbia adocchiato, inseguito, divorato. Simona Ventura e Berlusconi continuano però a dargli visibilità. Simona Ventura e Berlusconi in quest'ordine. Credevamo che certe persone non facessero più parte del calcio che amiamo, del calcio dove il gesto di Kakà si esalta in una pienezza antica, e invece ci siamo sbagliati. Perché ci sia un sopra e un sotto, un Olimpo e un Trivio, è necessaria una separatezza, e invece ancora una volta l'ambiente calcio si è rappresentato per quel poco che è. Gabriele, provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Ora, quel ragazzo di Siena mi ha grattato il mio intervento. Anch'io dicevo, insomma, che siamo un popolo un pochino strano, perché se fosse andato via Kakà tutti gli avrebbero dato del mercenario, come è già successo in passato, anche se sono dei 19 milioni di euro l'anno, sono tanti soldini. Ora invece che è rimasto ci vuole il 0007 per capire il motivo per cui è rimasto. Io credo che sia una cosa un pochino più semplice, nel senso che magari è un ragazzo molto cattolico, che segue molto la religione, quindi insomma una persona con la testa sul collo, che magari sta attento anche al cuore. Ecco, sicuramente non sarà stato tutto questo, però io voglio credere, diciamo, in maniera positiva. Ecco, volevo dirti questo. Ma non c'è nulla di negativo nel fatto che Kakà possa averci, dal mio punto di vista, pensato su un po' troppo, ma non c'è nulla di negativo nemmeno, io trovo, o di gratuito nel non esagerare con la retorica, nel sottolineare il gesto di Kakà. Io ho trovato delizioso il commento a caldo di ieri di Gigi Riva. Gigi Riva è uno che di rifiuti ne ha fatti altri, e la differenza era che Riva giocava nel Manchester City e lo volevano il Real Madrid e il Milan, no? Come, giusto per cambiare un tantino le parti in commedia. Riva è sempre rimasto al Manchester City in tutta la sua vita, e ha anche avuto la gioia leggendaria di uno scudetto al Cagliari, che non so in che secolo, in che millennio potrà essere ripetuto. Quando Riva dice Kakà ha fatto una scelta dolce come un gelato alla panna, mi pare che abbia detto tutto con una semplice, lieve e battuta che spiega quanto si sia esagerato nella retorica, nel sottolineare il gran rifiuto di Kakà, e quanto invece quello di Kakà sia una semplice scelta tecnica che, ripeto, poteva anche essere compiuta in tempi più brevi. Antonio Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Senta, allora io proprio casca proprio a fare giorno quello che stava dicendo lei, perché siccome, vabbè, io sono di Napoli, quindi potrei immaginare che sono tifoso del Napoli, e che noi tutti qui viviamo nel mito di Maradona, no? Cioè del calciatore che ha lasciato il grandissimo club per venire a giocare nel piccolo club, cambiandogli la vita praticamente. Ecco, io nei commenti che avevo ascoltato in questi giorni sulla vicenda Kakà c'era proprio questo tipo di retorica, questo dogma, cioè che il grande calciatore non può giocare in un piccolo club e pensare di portarlo ai massimi livelli. L'ho sentito dire da tutti, da calciatori, ex calciatori, procuratori, presidenti. Io l'ho trovato come diciamo tifoso di una squadra minore, diciamo, dal punto di vista del blasone, l'ho trovato un po' frustrante, no? Perché praticamente si toglie la possibilità a milioni e milioni di altri tifosi che non sono quelli delle solite grandi squadre di poter sognare di avere un giorno nella propria squadra un calciatore come Kakà. Come Kakà, anche questa è un'altra chiave di lettura, Antonio, grazie. Cambiando completamente argomento, Mario De Filippo scrive, estraendo questo dato dal comunicato di ieri del giudice sportivo, ammenda di 20.000 euro con diffida alla società Inter per avere i suoi sostenitori al 20esimo, 21esimo e 34esimo del primo tempo lanciato nel settore occupato dalla tifoseria dell'Atalanta tre razzi, uno dei quali colpiva al volto un tifoso atalantino che doveva ricorrere alle cure dei sanitari. La lettera di questo ascoltatore è: da quando le lesioni alle persone sono meno gravi dei danni ai treni, non ho più parole. Mario, devo dire che effettivamente ne ho poche anch'io, dopo aver visto che per un atto del genere una società se la può cavare con 20.000 euro e di fida. Torniamo in onda con la vigilia anche di Udinese-Sampdoria, altro quarto di finale di Coppa Italia in programma oggi, anzi in anteprima rispetto a Inter-Roma, cioè alle 18, sentiamo la vigilia difficile, perché è un periodo veramente difficile quello dell'Udinese, la vigilia di Marino. Non ci saranno stravolgimenti particolari, ecco. Non è come l'altra volta che magari avevamo la necessità di valutare le condizioni di alcuni giocatori e abbiamo rischiato tanto con la regina. Adesso, ripeto, il concetto è totalmente diverso. L'Udinese indubbiamente sta facendo un buon cammino in Coppa UEFA, sta facendo, soprattutto se passerà il turno stasera, un bel cammino in Coppa Italia. Certo, nelle ultime 10 partite in campionato non ha mai vinto e ha accumulato la bellezza di 3 pareggi e 7 sconfitte nelle ultime 10 giornate. È la serie aperta negativa più negativa per l'appunto del nostro campionato. Andrea ha chiamato da Caserta, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, io devo intervenire sulla vicenda Kakà. Sì. A mio parere, brevemente, cioè, ha sbagliato sia Kakà in quanto si è fatto blandire dai tifosi, quali tifosi dopo 2-3 partite che il Milan non vincerà lo andranno a cercare sotto casa come imputato delle mancate vittorie, e anche il Milan ha sbagliato perché con quella cifra c'è un solo giocatore a mio parere invendibile, è Messi, che ti fa vincere tutte le partite. Kakà è un buon giocatore, ma se domenica a Bologna io penso. È caduta la linea, Andrea, ma era abbastanza chiaro quello che stava dicendo. Io credo che il Milan abbia sbagliato fino a un certo punto. Il Milan ci ha provato, no, a dar corda, a lasciare corda morbida al Manchester City. Poi questo ha detto di no. E quindi è andata a finire come sappiamo. Scommettiamo, scrive un ascoltatore, che Aldo Grasso è di sinistra. Ci provi, ma la perde questa scommessa perché non corrisponde assolutamente. Vittorio da Parma, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Niente, no, a parte il fatto che il mio intervento ormai è stato tagliato da quel ragazzo di Siena che parlava di Kakà sotto forma spirituale, e io se fossi in Kakà me ne andrei domani, nel senso che, ascoltate, io vi dico, ho pregato, il Signore mi ha detto di rimanere, questa frase qui non l'ha ripetuta nessun tifoso del Milan, è come se io dicessi una cosa e non mi ascolta nessuno, come se non esistessi, e già questo qui se fossi in Kakà mi darebbe un po' fastidio. Però io la voglio buttare a fare, invece la voglio terminare così, con una battuta. Quello che mi preoccupava a me, signor Garanzini, è questo, che Kakà ha detto è Dio che mi ha detto di rimanere, e il giorno dopo Berlusconi è saltato su in televisione dicendo che l'ha trattenuto lui. Niente, non vorrei che ci fosse... Non vorrei che ci fosse una non inedita, come dire, identificazione. Ascoltiamo allora. Niente, mi pare arrivato il momento di ripassare gli appuntamenti della storia dello sport. 21 gennaio, che cosa è successo? Nicola Filippone. Sembra ieri. 21 gennaio 1990. John McEnroe diventa il primo tennista ad essere espulso durante un torneo del Grande Slam. Succede nel corso dell'ottavo di finale degli Australian Open, che il campione statunitense sta disputando contro lo svedese Michael Perfors. McEnroe prima si fa ammonire per offese al giudice di linea, quindi viene penalizzato di un punto per aver spaccato una racchetta a terra e infine, convinto di non rischiare ancora la sconfitta, insulta platealmente l'arbitro, che lo allontana applicando il nuovo codice disciplinare. Il trentenne ex numero uno del mondo al momento dell'espulsione stava conducendo per 2-7-1. Per vincere l'incontro gli mancavano due soli game. Questo in effetti è un episodio curioso che a suo tempo fece epoca, poi certo sempre entro certi limiti, ma è un episodio di grande livello. Riusciamo a finirla con Kakà? Mi domanda qualche ascoltatore con i messaggi, visto che ormai gli ultimi 5-6 più o meno si sovrapponevano come opinioni. Riusciamo a cambiare genere? Fabrizio da Milano, buongiorno. Una nota di colore prima, io mi ricordo di Ibrahim Ba che disse: Dio mi ha detto di giocare nel Milan, e Ancelotti rispose: a me non ha detto niente, a parte la nota di colore. Questa ecco. È carina. Ritornerei sul discorso di ieri del rapporto fra Rocco e Mourinho. Non si è calcolato però il potere di acquisto, cioè mi spiego meglio, io magari mi sbaglio, 1962 allenava Rocco al Milan? Sì. Ecco, 62-63. Un appartamento a Milano costava 2 milioni di lire, oggi lo stesso appartamento, rogito alla mano, vale 250.000 euro. Quindi, voglio dire, facendo il raffronto, insomma, non si è calcolato esattamente questo. Prende sempre uno sproposito Mourinho nei confronti di Rocco, indubbiamente, però è stato fatto un calcolo di rivalutazione senza contare il potere d'acquisto che è cambiato. Ultimissima cosa, però vorrei fare... Mi scusi un attimo, io domani questa visto che torna qua Marco Bellinazzo per altre ragioni, gliela sottopongo, perché insomma, mi sembra un po' strano che al Sole 24 Ore non abbiano calcolato anche non abbiano tenuto conto anche del potere d'acquisto. Ricordo di mio padre che faceva l'impiegato nel 75 e prendeva 120.000 lire al mese nel 75, quindi 10 anni dopo 1 milione al mese, insomma un potere d'acquisto era diverso. Ultimissima cosa, se mi permette, vorrei fare i complimenti a Fabio Tavelli, che penso sia il suo unico erede per classe e per preparazione. Beh, questo lo registriamo, mettiamo via questo frammentino, perché sono convinto che non tanto per il fatto di essere erede di quell'uno o di quell'altro, perché sennò in questo caso sarei io ad imbrodarmi, e invece è stato lei, e sinceramente la ringrazio con un po' di imbarazzo, però certamente gli farà piacere. Fabrizio, grazie, a presto. Emanuele da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io vorrei, visto che stimo lei e la vostra trasmissione, che si facesse un commento ulteriore a quello che dicevate prima e diceva lei, appunto, del razzo sparato ai tifosi dell'Atalanta e punito con 20.000 euro di ammenda. Perché mi sembra che quando succede qualcosa, magari sarò di parte, sono un tifoso atalantino, quando succede qualcosa all'Atalanta o che combina qualcosa un tifoso dell'Atalanta, si squalificano i campi, si vanno con ammende molto superiori. E magari ci vorrebbe proprio solo una trasmissione dedicata all'argomento, ma mi sembra che sia di gravissimo grave quello che è successo, ecco, insomma. Io lo trovo di assoluta gravità. Poi ovviamente i messaggi che dicono lei è il solito antinterista, li ho già letti sul display. 5 minuti prima, lei è il solito antimilanista, antijuventino oggi no, perché non ne ho parlato, ma se no sarebbero ben presenti anche quelli. Però io sinceramente, se oggi con CASMS e tutte le altre sigle e tutto quello che stanno facendo e non facendo, e questa menata della tessera del tifoso, cioè sto parlando in termini, come dire, un po' terra a terra, ma proprio per rendere un po' l'idea della saturazione, se una tifoseria, che non è una tifoseria vergine dal punto di vista dei comportamenti, basterebbe ricordare come l'ha passata liscia a Parma l'ultima giornata del campionato scorso, se questa tifoseria X si presenta su un campo avverso e dei suoi sostenitori per 3 volte lanciano dei razzi nel settore dei tifosi avversari, colpendo al volto uno di questi 3 razzi, colpisce al volto uno di questi tifosi, 20.000 euro con diffida è una buffonata, secondo me, non è una sanzione da giudice sportivo. In questo momento storico, che vi ricordo sempre, è improntato alla tolleranza zero. Non dimenticatela mai questa, perché siamo in un paese implacabile. Alberto Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, una dica. Riflessione veloce sempre su Kakà. Amò. Leggendo sulla Gazzetta dello Sport oggi, soprattutto l'articolo relativo alle impressioni della dirigenza del Manchester City, notavo che loro non hanno mai fatto un'offerta precisa riguardante lo stipendio di Kakà e che appunto la trattativa è saltata perché proprio Bosco, il padre di papà, non avendo questa informazione, anzi avendo avuto informazione che l'offerta sarebbe arrivata oggi via mail, ha fatto saltare la trattativa, mentre Berlusconi ha detto anche alla trasmissione quella sulla 7 che non poteva trattenere un giocatore con quell'offerta. A me è sembrato che fosse più Berlusconi che ha quella cifra pattuita prima con Manchester City, la dirigenza del City parla di 12 settimane certo, di trattativa, certo, avesse voglia di dar via il giocatore e che non ci avesse nessuna voglia di andare via. Grazie. Anche questa è un'altra che si avvicina, io credo, alla realtà. Dobbiamo fare in fretta con Filippo da Roma. Buongiorno. Buongiorno signor Granti. Dica. Senta, vorrei fare sempre su Kakà perché perché una botta di originalità non ce la neghiamo mai. No, ma guarda, è un grande giocatore. Vede, secondo me è stato l'unico, diciamo, è stato l'unico che ha saputo rispettare la maglia rossonera. Sì. Perché? Perché sentendo poi dalla Gazzetta Sportiva, dai giornali radio, che dicevano che il Manchester City al Milan gli avrebbe offerto 120 milioni di euro più 15 milioni di euro a stagione, invece il giocatore non c'è cascato. C'è stato l'unico giocatore fedele alla maglia. Se per esempio, che ne so, era Ronaldo oppure Ibrahimovic. Sì, Ronaldo si comportò diversamente, su questo non c'è dubbio, l'abbiamo già ricordato ieri, Filippo. Siamo vagamente sazi di Kakà, ma siamo anche arrivati alla fine di questo appuntamento, sicché grazie a Filippo Auregi in regia, Flavio Suardi in redazione, Giornale Radio.